oltre la crisi. Parliamone. In studio il professor Francesco Campione. E si torna insieme 13.02 minuti di questo mercoledì 18 dicembre a pranzo con Oltre la crisi insieme a Francesca Clementoni e Francesco Campione. Buongiorno! Buongiorno! Buon dì! Io voglio partire da una cosa che ho visto proprio così, in questo istante. Sì, ricordiamo che stavamo parlando d'amore. Intanto. E avevamo un po' analizzato con Francesco le varie tipologie, diciamo, per grossi macrosistemi del modo di amare, i limiti di questi tre grandi blocchi, diciamo, che avevamo individuato del modo di amare, e oggi vorremmo arrivare alle risoluzioni delle crisi in materia di perdita d'amore. Però vorrei partire dal post che ha messo Amici di Rivivere, l'associazione di Francesco. Salutiamo Manuela intanto, che è sempre lei che è bella attiva, che mette i post e quant'altro, e mette questo post dicendo: ti telefono o no, ti telefono o no, ho il morale in cantina. E quindi direi che possiamo partire dal morale in cantina, e però invitando i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici invece a telefonarci o messaggiarci. Eh sì, al 333-180-9494, e il vostro morale va in soffitta. No, non nel senso che lo mettiamo da parte, no. Che va in mansarda, mettiamola così. Nell'attico. Che va nell'attico. Ok, bisogna stare attenti a quello che si dice. Pieno di vetrate di luce. Nell'attico. Ricordo anche il numero di telefono, se volete invece intervenire via voce, 051 34 6458. Francesco, prima di arrivare al morale in cantina, vorrei partire da un post che ho trovato su Agora Vox questa mattina, che si intitola Il lato comico dell'amore. Ovviamente non si riferisce magari a quella aura di stupidità nel senso buono e tra virgolette che ci prende quando siamo appena appena innamorati, ma si domanda qualcosa su ciò che avviene, dice in questo articolo, dalla notte dei tempi e nella maggior parte delle situazioni, ovvero dice: infatti, non vi sembra paradossale che alla ricerca talora ansiosa dell'oggetto d'amore, al desiderio di quella persona sentita come perfettamente complementare a sé, si accompagni, una volta che quella è entrata nella nostra vita, un ossessivo impegno per renderla diversa da quella che è? E conclude questo articolo, non sto a leggervelo tutto, tutto ciò sembra veramente buffo, che sia il caso di ripensare oggi anche l'amore, cominciando dal considerarne la fragile temporalità e dal vederlo non come qualcosa che si ha, ma solo come un cammino mai garantito in cui non si può entrare senza liberarsi da ogni idea preconfezionata dell'altro e senza la sincera disponibilità ad apprendere dall'altro. E se la valenza universale e ontologica dell'amore consistesse proprio nel fatto che amando si impara che è possibile fare esperienza della verità del mondo a partire dalla differenza e non solo dall'identità? Certo, questo penso che si possa condividere, no? Imparare la verità del mondo attraverso la differenza, attraverso la diversità. Perché in realtà amare vuol dire uscire da sé, dovrebbe voler dire, cioè amare un altro. E se l'altro è irraggiungibile, mi viene da ridere. Se l'altro è irraggiungibile, è chiaro che non c'è garanzia. Se l'altro in fondo dentro di sé c'è sempre solo lui, non mi pare che ci siano garanzie, a meno che l'altro non apra tutte le sue porte, non si esponga, non si renda disponibile. Quindi da un certo punto di vista credo che sia verissimo quello che soprattutto le conclusioni, perché la premessa, sulla premessa penso che si possa dire qualcosa, cioè sul fatto, cioè, che appena l'amore comincia anche il fatto che tu constati che è differente da te l'altro e avresti bisogno che diventasse diverso da come è. Questo è una constatazione, però ha a che fare con un certo tipo di amore, ha a che fare con quello che abbiamo chiamato l'amore di assimilazione, cioè l'amore in qualche modo che è un rispecchiamento di sé. Se tu, quando dici l'altro è complementare, vuol dire che l'altro mi conferma nel mio modo di essere, come voglio sentirmi, appena io ci sto insieme capisco che per certe cose non mi conferma e quindi comincio a cercare di trasformarlo. Però questo è un tipo di amore. Però tu l'altra volta tu stesso dicevi che è quello, diciamo, più diffuso nella nostra società, molto biologica, molto... Diciamo che questo è quello più personale, l'amore più... questo è il più diffuso a livello profondo. Perché noi a livello profondo poi siamo abbastanza così, siamo abbastanza... mettiamo il valore fondamentale alla nostra interiorità. Quando diciamo io, diciamo l'io più profondo, l'io segreto, non diciamo l'io, quello che vedono tutti, quello che faccio vedere solo a quelli che mi pare a me, quello intimo, no? Da questo punto di vista sì, è abbastanza vero che è molto diffuso, però bisogna generalizzare, perché per esempio se appunto tu ti innamori di un altro, non per te ma per lui, non per la complementarità che ha con te, ma per quello che è lui, non ti meravigli quando incontri un altro che non conosci e che è diverso da te e non hai bisogno di renderlo come vuoi tu, perché altrimenti questo cambia la natura del tuo amore. Non c'è dubbio. Quindi oggi vogliamo arrivare a riportare, come dire, il morale dalla cantina all'attico. Però ti lancio una provocazione, perché noi abbiamo impostato questa trasmissione sul superamento degli stati di crisi. La settimana scorsa abbiamo messo in evidenza tutti i limiti dei tre tipi di amore che possono portare a questi stati di crisi. Dopodiché oggi dovremo affrontare la risoluzione degli stati di crisi. Mi verrebbe da domandarti: ma esiste una risoluzione? Perché guardandosi attorno gli esempi non sono in questa direzione, la maggior parte degli esempi, poi non ha nessun valore statistico, ma insomma tra persone che ne uccidono altre o ne minacciano altre, persone che agiscono su se stesse, quindi magari chiudendosi e arroccandosi in maniera che poi all'incontro successivo non trapela nulla né la differenza né l'identità, assolutamente, per paura, per scottature precedenti e quant'altro, oppure persone che diventano ciniche direttamente sul tema. Certo, io direi però che intanto non è nella maggior parte dei casi che le crisi non si superano. Nella maggior parte dei casi le crisi si superano. C'è un effetto, paradossale dovuto al fatto che ciò che emerge di più sono le situazioni critiche. Nella maggior parte dei casi, per esempio, facciamo l'esempio della crisi di un amore di attaccamento. L'altro cambia, lo scambio comincia a non funzionare, quello che mi dai è inferiore a quello che io ti do e la relazione entra in crisi. Allora io mi guardo attorno e la pulsione, perché il superamento di questa crisi consiste in questo, è la sostituzione. Me ne trovo un altro o un'altra, d'accordo? Nella maggior parte dei casi cosa avviene? Avviene che trovarsene un altro o un'altra è difficilissimo, cioè che la sostituzione non è qualcosa di molto facile. Nel momento in cui tu la soluzione, per esempio, ci sono persone che non riescono a distaccarsi per poi attaccarsi a un altro, e ci sono persone che si distaccano facilmente ma un altro non lo trovano. Quindi, di fronte a queste difficoltà, per esempio la difficoltà di sostituzione, che succede nella maggior parte dei casi? Nella maggior parte dei casi succede che la realtà si impone, cioè che se non è possibile sostituire mi tengo quello che ho, meglio quello che ho che niente, perché da un punto di vista, dal punto di vista del calcolo costi-benefici, che è tipico di questa modalità, è ovvio che è meglio quello che ho che niente. Per cui non è vero che nella maggior parte dei casi le crisi, è che quando le crisi si risolvono, quando le crisi si superano, non fa notizia. Non fa notizia. La famosa buona notizia che ha meno risonanza della cattiva. Certo, certo, precisamente così. Lo stesso è per le crisi delle relazioni di assimilazione, cioè quando tu... l'altro non corrisponde più a quello che tu senti dentro di te, è diventato un estraneo, diverso, è impazzito, non fa più quello che mi aspetto, quello che io so che deve fare, io lo conosco dentro di me, lo so chi è, ma non è più così, no? Allora che cosa succede? Succede che tu cominci ad elaborare il lutto. E cosa vuol dire che elabori il lutto? Vuol dire che te lo porti dentro, come dire, non importa più incontrarlo fuori, io continuo ad amarlo dentro. Ma se tutte le volte che tu lo senti dentro vivo l'altro, anche non cercandolo fuori, ti senti in colpa o sei arrabbiatissimo con lui, questo ti impedisce, non funziona, no, non funziona. Che succede nella maggior parte dei casi? Nella maggior parte dei casi succede che uno il senso di colpa dopo un po' lo supera e la rabbia dopo un po' la supera. E l'altro dentro di te se lo tiene. Per esempio, cosa rende possibile a tante persone di stare insieme, convivere nello stesso spazio vitale, non essere più, ognuno pensa dell'altro quello che vuole, c'ha un rapporto con l'altro interno, ma con l'altro esterno non ha nessun rapporto, eppure questi non si separano? Perché è accaduto che tu ti fai bastare quello che hai dentro perché hai superato rabbia e senso di colpa. Che è quello che qualche volta si dice, beh, dopo la passione passa, si diventa amici, tante cose non ti danno più fastidio, cioè tante cose non ti fanno più sentire in colpa e non ti fanno arrabbiare. Ora, interessante. In tante situazioni la cosa si risolve. Quando tu non ci riesci a superare quella rabbia o quella colpa, non riesci a vivere a farti bastare l'altro dentro di te, e allora il fatto di averlo sempre presente lì ti dà un fastidio terrificante, perché tu tutte le volte che è lì senti la rabbia o senti il senso di colpa, e allora che va in crisi, allora che si determina la crisi. Lo stesso è per l'altro tipo di amore, l'amore di approssimazione. Quando è che l'amore di approssimazione va in crisi? Quando tu ti avvicini a un altro, ti avvicini e l'altro si allontana, oppure tu ti avvicini e l'altro ti strumentalizza e l'altro ti chiede la carta di credito, poi l'eredità e poi la fideiussione, eccetera. Sì, ma quello non è amore. Come? Sì, quello di chi dà è amore. Ma quello che chiede, no. No, è una specie di amore. Cioè, se mi ama, mi dà quello che ha. È un altro tipo di amore. È l'amore di gratitudine, no? D'accordo? Allora, va in crisi, naturalmente, questo tipo d'amore. Quando va in crisi, che succede? Nella maggior parte dei casi succede che io continuo a dare la carta di credito, la fideiussione, eccetera, pur di poter continuare ad amare, purché l'altra persona si faccia continuare ad amare. Poi ci sono invece i casi in cui questo non succede, non è possibile. C'è una sorta di baratto materiale affettivo. Certo, vuol dire? certo, una sorta di baratto materiale affettivo. Cioè tu mi permetti di amarti, mi permetti di dire io vivo per fare felice te, perché io poi in cambio ti do qualcosa. Sai che secondo me queste situazioni, ho pensato crescendo, che sono già cresciuto abbastanza, diciamo crescendo di d'altezza. Età. No, questo caso di età purtroppo, sono arrivato a pensare che in fondo anche in caso di scambi di questo genere ci si può voler bene. Certo, ma è proprio quello che intendo dire quando dico che queste crisi possono essere superate. Sì. Quando è che la crisi non si supera? Quando all'interno di quella modalità di amare... Non, non c'è nel repertorio di quella modalità d'amare la possibilità di rilanciare e di mettere a posto le cose. Cioè, quando l'ostacolo è insormontabile. E ci arriviamo tra un po'. 3 minuti e 26 secondi. Io, scusa, prima di andare in musica, certo, chiedo ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici di raccontarci le loro esperienze in merito a crisi superate, non superate, vicine, lontane. Insomma, siamo qua. Aiutateci a comporre la trasmissione come al solito. 333 180 94 94 per i vostri sms. Oppure 051 34 64 58 per parlare con noi. Esther Phillips. No one seems to know I'm gone. Home is where the hatred is. Home is filled with pain. And it may not be such a bad idea if I never went home again. Stand as far away from me as you can. With it, Lord, did you ever try to turn your sick soul inside out so that the world can watch you die? Home is where I live inside. Finisce così Esther Phillips, al contempo noi torniamo in diretta sui 103.1 Oltre la crisi, parliamo d'amore, aspettiamo i vostri contributi, ma mi pare che siano già arrivati. Scusa, non riuscivo a aprire i messaggi. Allora dicevi tiella lunga. Ero andato un attimo in panico. Tiella lunga, Willy. No, c'è Edo che ci aiuta a rompere il ghiaccio proprio degli sms e lo ringrazio perché in realtà dà un contributo a quella che prima io ho definito una mia provocazione alla risoluzione delle perdite in caso appunto di amore. E dice: ho vissuto una convivenza lunga 15 anni, finita nel 2003 per un tradimento. Da allora, un po' perché ho gustato il non aver compromessi, un po' perché non credo più ad un rapporto vero, non ho più avuto una storia seria. Devo andare dallo psicologo, si domanda Edo. Ci sei già Edo. Sei in diretta con uno psicologo. Ci sei già, purtroppo. No, intanto il problema è, bisognerebbe cercare di capire perché Edo non crede più nell'amore dopo il tradimento, anche se si intuisce perché, no? Perché non si fida, perché ha paura di ripetere la stessa esperienza, cose normalissime, ovviamente intuitive, no? Ecco. Secondo me, quando è che si deve andare dallo psicologo per una cosa del genere? Quando non si riesce a superare la crisi da soli. Perché se uno ci riesce da solo, e la maggior parte delle persone ci riescono da sole, va bene. Ecco, in questo caso, che prendiamolo come emblematico di tutta una serie di situazioni che possono essere simili, in questo caso qual è l'ostacolo che si può non riuscire a superare? L'ostacolo è appunto l'effetto del tradimento. Cioè, come dire, se ti ha tradito una persona, perché devi pensare che ti tradiranno tutti o tutte? Non è possibile, cioè è una generalizzazione dovuta al tuo dispiacere. Quindi, in definitiva, se tu non riesci a superare quella generalizzazione lì dovuta al tuo dispiacere, tu dallo psicologo ci dovresti andare, perché devi elaborare un lutto che non hai elaborato. Cioè c'è un blocco. Se invece attraverso un periodo in cui non ci sono compromessi tu ti rendi conto che puoi tradire anche tu, che non è poi così devastante tradire, che non è detto che tradire faccia perdere tutte le illusioni, faccia perdere totalmente la fiducia negli altri, eccetera, allora tu ci puoi arrivare a superare. Se invece in quel periodo che tu dici senza compromessi, in realtà non fai altro che avere rapporti superficiali, è ovvio che il prezzo che paghi è un prezzo molto alto. Quindi lì bisogna decidere se uno, quando si è scottato, per non scottarsi più, non si avvicina più al fuoco. Ci sono due conseguenze: che non si scotterà più, ma non si riscalderà neanche più. Wow! Questa metafora mi è piaciuta. Tu, mentre fai i giochini con le candele, chiudi il microfono magari. Ah, perché sentiva zic zic, certo, dell'accendino. Dimmi qualcosa, ma scusate, scusa. Ma qui ci abbiamo che i bambini. Che bella questa diretta. vabbè. Edo, questo è quanto. Cosa ti devo dire? Perché tu dicevi il tradimento non è sto granché? Non che ne voglia fare una questione morale, assolutamente. Però è chiaro che nel momento di un tradimento non, cioè scoperto, quindi non dichiarato, non, un conto è se due persone si relazionano anche su questo tema, ma se non si relazionano e poi si scoperchia, diciamo, il pentolone, è abbastanza normale sentirsi, cioè sentire calpestati i propri sentimenti e anche la propria dignità, perché comunque la sensazione è quella di essere maltrattati in un qualche modo. Sì, però, come dire, intanto bisogna dire che c'è una scuola di pensiero oggi che considera, come dire, il tradimento come un passaggio importante per imparare ad amare. Se uno non è mai stato tradito, c'ha qualche problema nell'amore. Ma a parte questo, che mi sembra un po' esagerato in realtà, no? C'è in realtà, però, quando tu poi vai ad analizzare i tradimenti, e invece che basarti per giudicare un tradimento solo sull'enorme dispiacere che ti fa, che te lo fa, no? Ma ti chiedi perché mi ha tradito, no? Il più delle volte scopri che ci sono delle ragioni per cui tu vieni tradito. Magari erano 10 anni che non gli parlavi con quell'altro e quello poi alla fine ti ha tradito. Ci ha messo 10 anni, Che pazienza! Cioè, bisogna vedere. Allora, da un certo punto di vista, io credo che il tradimento sia sormontabile, come tutte le situazioni critiche, se ti fa crescere. Cioè, per esempio, se tu attraverso un tradimento ti chiedi se mi avrebbe tradito se le cose fossero andate in un altro modo, o mi ha tradito proprio perché le cose tra di noi sono andate in un certo modo. Cioè, vuol dire che spesso il tradimento non è altro che, come dire, un punto d'arrivo, non è un punto di partenza. È il punto d'arrivo di una crisi, il tradimento, non è il punto di partenza di una crisi. Cioè, una crisi si può concludere con un tradimento o si può concludere con l'ingoiare il rospo, ma c'è sempre un rospo prima, eh. E che rospo, alle 13, scusate, 27 minuti tra una candela e l'altra, però intanto in studio si sta espandendo un aroma di mela verde straordinario, quindi lo studio del nostro psicologo abbiamo è lo studio olistico oggi assolutamente legato anche a sensazioni extra auditive ma anche olfattive. Poi c'è il colore verde. Colore verde, speranza, musica, pubblicità, rientro in diretta, può andare signora Francesca Clementoni. Sì, intanto invitiamo tutti a pensare, a scriverci qualcosa al 333 180 94 94 per gli sms, 051 34 64 58 per intervenire a voce. A tra un po'. Babies into running around, hanging with the crowd. Put your business in the street, talking out loud. Saying you bought all this and that, how much you done spent. I swear she must believe it's all heaven sent. Hey boy, you better bring that chick around. To the sad, sad truth, the dirty lowdown, yeah. Wonder who taught her to talk like that. Yeah. I wonder who. Listen, nothing you can't handle, nothing you ain't got. Put the money on the table and drive it off the light. Turn on that old love light and turn the baby to a yes. Same old schoolboy game, got you into this mad game. Son, better get back to town. Face the sad old truth, the dirty lowdown. Città Fujiko, je t'aime. State ascoltando Radio Città Fujiko. Radio Città Fujiko, 103.1 FM. Mercoledì 18 dicembre torniamo insieme qui dagli studi di Via Gian Bologna con Francesca Clementoni, Francesco Campione e William Piana in regia e a qualche contributo esterno oltre che accendere le candele, oltre la crisi, per parlare insieme d'amore e tutte le sfumature e quant'altro, aspettando i vostri contributi da casa anche. D'altra parte, cosa c'è di meglio parlando d'amore di una candela accesa? È qua, di fronte a noi, guarda. La vedo. Grazie Willy per la scenografia radiofonica. Esatto. Partendo dalla risposta che hai dato a Edo, vorrei andare a bomba sulla questione, ovvero prima tu hai parlato dei vari tipi di amore, come si risolvono, come evolvono quando si risolvono da sé, però vorrei arrivare invece ai blocchi dei vari tipi di amore, quelli che sembrano irrisolvibili, e direi che il messaggio ci aiuta molto in questo senso. Sì, in un certo senso l'abbiamo già accennato, ma diciamolo più esplicitamente. Allora, l'amore di attaccamento basato sullo scambio della soddisfazione dei bisogni, do ut des, tu mi dai, io ti do, e l'amore funziona quando lo scambio è equo, il blocco è quando c'è qualcosa che non va, cioè lo scambio non è più equo. Uno dei due si ammala, per esempio, uno dei due diventa brutto, uno dei due si invecchia, uno dei due si impoverisce, eccetera. D'accordo? Abbiamo detto che spontaneamente questo poi si può risolvere. Quali sono i blocchi? Due fondamentalmente. Il blocco che si può instaurare quando tu ti devi distaccare dalla persona da cui te ne vuoi andare, perché, perché l'amore, la relazione è in crisi, il che vuol dire per esempio che se tu l'hai idealizzato è più difficile distaccarti. Se ti ha dato moltissimo e tu ancora non riesci a rinunciare a quello che ti ha dato e che ti dà, è più difficile. Cioè uno dei blocchi può essere la difficoltà di staccarsi, perché per attaccarsi, per andarsene, attaccarsi un altro, tu ti devi staccare. L'altra difficoltà, cioè in qualche modo all'inizio e alla fine. Alla fine perché? Perché tu sei staccatissimo, prontissimo, sarei prontissimo per altre relazioni, ormai mi sono distaccato tranquillamente, eccetera, però nessuno mi vuole. Però nessuno mi vuole. Questo è un altro blocco, un'altra difficoltà. Questa per esempio è tipica delle persone anziane, no? Che dopo una vita che sono state con una persona, magari il rapporto è andato bene, la perdono, oppure vengono lasciati, no? Per esempio in certi rapporti in cui ci sono grandi differenze d'età, questo può succedere, no? Perché nel momento in cui i cambiamenti della vecchiaia diventano eccessivi e diventano difficili da gestire, lo scambio non funziona più e l'altro se ne va, e tu dici vabbè, vada, ne trovo un'altra, no? O ne trovo un altro. Ma è una parola, la troverai? È difficilissimo. Può essere difficile. Ecco, il blocco può essere a due livelli, o a livello della distacco o a livello della adesione di un altro a un certo tipo di relazione con te. Come si superano? Come si superano queste due crisi, no? Ecco, per esempio, la crisi del distacco, cioè la difficoltà di distaccarsi è dovuta al fatto che tu hai idealizzato la persona e il rapporto con quella persona, l'aiuto che si dà alle persone è nel fare un esame di realtà più adeguato, cioè tu capisci piano piano che non era tutto oro quel che riluceva, c'erano delle cose che non andavano, no? E tu man mano che diventi più realistico e ti è più possibile distaccarti. L'altra, scusa se ti interrompo, l'idealizzazione potrebbe anche scattare nel momento che il cambiamento dell'altro è magari dal punto di vista evolutivo, emotivo, perché comunque ci si modifica anche crescendo. Brava, cioè l'altro, e a maggior ragione tu idealizzi quello che era la partenza in un qualche modo. Esatto. No, oppure come dire, Quello che dici tu è giusto, ma nel bene e nel male, cioè possono succedere due cose. Se l'altro per esempio cresce e tu non cresci, se l'altro diventa più maturo e tu diventi meno maturo, l'altro fa più carriera e si arricchisce di più rispetto a te. Questo succede ai maschi spessissimo, quando le donne li superano hanno un grave problema da questo punto di vista. Allora tu puoi avere difficoltà a distaccarti. Un'altra difficoltà a distaccarsi consiste spesso nel fatto che tu, come dire, a distaccarsi da persone che sono andate più avanti di te, cioè il cui cambiamento non è in negativo ma è in positivo, no? Consiste nel fatto che tu consideri che farà un'altra vita più bella ma non con te, e ti incazzi, no? Lo farà con un altro. Dice, adesso che non ha più tutti quei bisogni, adesso che è diventato un altro, adesso che è migliore, adesso mi lascia. No, non è possibile. Cioè diventa un ostacolo al distacco, no? Il superamento dell'altro ostacolo, per esempio nelle persone anziane, consiste nella cercare di capire che ci sono diverse modalità di relazione, perché spessissimo quando uno vuole sostituire, in realtà il modello che cerca di riprodurre è il modello di prima, no? Per cui l'aiuto alle persone è l'aiuto a capire che ci sono diverse modalità di attaccamento che non necessariamente devono ripercorrere le strade della relazione precedente. Per esempio nel mondo di oggi assistiamo, e questo i figli per esempio certe volte non capiscono, assistiamo al fatto che tante persone anziane, quando muore la moglie, la sostituiscono con una badante. La figlia e i figli non capiscono, non possono capire, perché si tratta di una cosa totalmente diversa. Cioè allora quella persona è riuscita ad attaccarsi a un altro, cioè al superare la sua crisi, pur restando quello il suo modo di amare, e ci è riuscito perché non ha stabilito lo stesso tipo, cioè non è sugli stessi scambi che funziona la relazione, funziona su altri scambi che possono ripugnare a un figlio, per esempio. L'altro punto importante, anche in questo caso, è che tu puoi non riuscire a trovare nessuna possibilità di superare la crisi stando dentro la tua modalità di amare, e allora tu puoi essere aiutato a cambiare la tua modalità di amare, cioè puoi essere aiutato ad accedere ad altre modalità di amare, cioè attraverso quella crisi tu cresci, attraverso quella crisi tu accedi ad altre possibilità di amare. Questo naturalmente è più raro e più difficile, ma è l'ultima risorsa di chi appunto non riesce dentro la sua modalità a superare la crisi. Un'altra sollecitazione ci arriva via SMS: non voglio immaginare cosa succeda se si hanno dei figli, e bisogna anche dire che in una società in cui conta più l'avere che l'essere, l'incontrare un'altra persona è ancora più difficile. Certo, una delle situazioni infatti più difficili per chi, per esempio, perché stiamo in questa ottica della sostituzione, cioè di questo tipo di relazione, perché poi vediamo cosa succede negli altri due tipi. In questa ottica qui, quando per esempio tu faresti in fretta a sostituire la persona con cui non vai più bene, l'amore è andato in crisi, così, faresti in fretta a sostituire, non hai problemi né a distaccarti né a trovare qualcun altro, no? Ma hai i figli, cioè tu ti puoi staccare da una relazione coniugale, ma non ti puoi staccare da una relazione genitoriale. Cioè tu hai due tipi di relazione con uno con cui hai fatto i figli: hai una relazione coniugale e una relazione genitoriale. La relazione genitoriale e coniugale è più facile da gestire con la sostituzione, la relazione genitoriale è molto più difficile. Per cui tu te ne vai, ti attacca un'altra, ma quella situazione di prima ti riacchiappa attraverso i figli. Allora lì ci sono diverse possibilità di superare. Per esempio ci sono quelli che usano il metodo Rousseau. Che sarebbe? Il metodo Rousseau è un metodo infallibile. abbandonare i figli. È vero, Rousseau era noto per questa cosa. Rousseau li faceva e poi li abbandonava. E questo gli consentiva di abbandonare la cameriera con cui li aveva fatti. Perché lui li faceva con le cameriere. È un bello schifoso, voglio dire. È un bello schifoso. È una modalità. Noi non diamo giudizio. Si dice, insomma, in termini tecnici, si dice bon vivant. Non si dice schifoso. Si può dire anche porco, ma si può dire si anche può uno. Dire. Si può dire anche porco, ma si può dire anche edonista. Si può dire. Cioè che tu poi, se il tuo scopo è farti gli scopi tuoi, è ovvio che quando da questo viene fuori un figlio, se tu sei coerente, puoi anche dire che me ne frega a me di questo figlio, è un effetto collaterale, lo abbandono. Questo è una. Naturalmente questo, come dire, bisogna essere o Rousseau o un cretino per poterlo fare. Cioè, no, vabbè, perché, però bisogna o, che. O un incosciente o Rousseau. Cioè, questo non è che libera Rousseau dalle sue responsabilità. No, no, ma però le responsabilità di Rousseau, poi in definitiva, se come è Rousseau, nessuno si ricorda Rousseau perché ha abbandonato i figli. Ma adesso io me lo ricordo. Sì, adesso tu sì, perché adesso te l'hanno ricordato. Però non è la cosa più importante di Rousseau. Alla fine, dice, è un peccato veniale, era Rousseau. Vabbè, ma comunque, mettiamola così. Mando un sms adesso. Esatto. L'altra via, se non sei Rousseau, l'altra via è quella di provare a separare la relazione genitoriale da quella coniugale e a fare andare bene la relazione genitoriale, nonostante che quella coniugale vada malissimo. Questo però implica che qualcosa di quella relazione che c'è stata resti. Perché, per esempio, non bisogna parlare male dell'altro genitore tutte le volte che i figli sono da uno dei due genitori. Perché se uno dei due genitori, tutte le volte che i figli vanno lì, parla male, mette in crisi la relazione genitoriale. E questo significa che non si può separare la relazione genitoriale che va bene dalla relazione coniugale che va male. No, d'accordo? Credo che l'ideale sia quello di far sì che attraverso la separazione, quando ci sono i figli, le persone crescano e imparino altri modi di amare. Per esempio, attraverso l'amore dei figli, che è un amore, l'amore dei genitori per i figli e l'amore dei figli per i genitori, è un amore che in un certo senso, se prevale nella vita di una persona, la fa crescere quella persona, mettendola in grado di stabilire, di imparare ad amare in altri modi più maturi. Il che, per esempio, può voler dire che nel momento in cui tua moglie o tuo marito parla male coi tuoi figli di te, tu non lo fai e coi tuoi figli giustifichi quel comportamento perché la moglie o il marito è arrabbiato o incazzato con te. Se sei cresciuto lo puoi fare, se non sei cresciuto non lo puoi fare e la crisi non si supera. Vai con un brano musicale, che poi abbiamo ben due tipi d'amore ancora da affrontare. Allora musica subito. What's wrong with you, Ndambi? E anche un messaggio, ti è. What's wrong with you? Cosa c'è di sbagliato assieme a te? What's wrong with you? chiusura 13:52 di questa puntata di Oltre la Crisi abbiamo salutato per lo stacco musicale con il messaggio che è arrivato. Sì, è arrivato un messaggio da Manuela che ci dice: io sto provando ad attuare la terza modalità descritta dal professore per superare la mia crisi amorosa. Confermo, è difficile, però mi sta aiutando in generale nella mia vita e nel rapporto con gli altri, come se la crisi amorosa fosse stato un trampolino per un salto più alto. Questo era il messaggio che ci arriva. Bene, bene, mi sembra un bellissimo esempio del fatto che, perché di solito quando io dico che attraverso le crisi si può crescere, tutti storcono il naso e dicono che culo si può crescere. Aspetta, ne facevo anche a meno. Della crisi. Quello che dice Emanuela mi sembra un esempio del fatto che si può fare, che è così che si fa. Poi è anche, giustamente, bisogna dirlo, faticoso, non è certamente una passeggiata, no? Per cui, come crescere in generale non è una passeggiata. Crescere è faticoso, implica il pagamento di prezzi, implica rinunce e implica anche cose sublimi, però. Non cose solo brutte. Allora voto per le cose sublime. Che sai, sono una entusiasta. Allora, andiamo agli altri due tipi di amore. Certo, allora, i blocchi, certo, e superamenti. Certo. Allora, i blocchi fondamentali del secondo tipo d'amore, quello di assimilazione, cioè quando uno l'altro se lo porta dentro e lo fa diventare una parte di sé, quando quest'amore finisce, tu che fai? Distingui tra quello che hai dentro e quello che c'è fuori. Quello che è fuori non lo cerchi più, te lo tieni dentro, quello che c'è da salvare. Questo vuol dire che riporti dentro la tua energia libidica, cioè il tuo desiderio, un po' lo dedichi a ricordarti ogni tanto che ce l'hai dentro e un po' lo dedichi ad incontrare altri. E questo è già il superamento. Certo, questo è dove superamento. Si blocca il quando meccanismo? Si blocca quando tu ti accontenti dell'altro dentro, ma tutte le volte che il tuo desiderio va nella direzione dell'altro che hai dentro e per esempio te lo ricordi, ti ricordi di quella volta che t'ha fatto quella cosa lì terrificante. In più è dentro di te, quindi è un pezzo di te che ti sta rivoltando. Ti ricordi e ti viene una rabbia tremenda e non ce la fai a tenerti, non lo superi. Oppure tutte le volte che ti ricordi l'altro, che l'altro è dentro e tu lo senti come parte viva di te, ti senti in colpa per averlo tradito quella volta in modo terrificante, eccetera, eccetera. E questo è l'ostacolo. Gli ostacoli fondamentali sono la rabbia e la colpa, fondamentalmente. Di nuovo, quindi? Sì, di nuovo la rabbia. Prima? No, come prima non erano la rabbia e la colpa. Gli ostacoli fondamentali prima erano... No, era la conseguenza, vero, hai ragione. No, adesso sono due sentimenti che possono essere due ostacoli. Per cui, come si supera? Si supera superando la rabbia e superando la colpa. Superare la rabbia vuol dire perdonare, riuscire a perdonare, il che per una persona, cioè per uno che vive nella propria interiorità, vuol dire che constatare che in fondo il male dentro di te, se tu vuoi, non ti arriva mai del tutto, lo puoi filtrare, per cui puoi anche perdonare, no? E superare la colpa vuol dire essere in grado di pagare il prezzo, di espiare, perché la colpa è come un debito che tu lo cominci a pagare e piano piano si estingue. Cioè, come dire, tu va bene, io tutte le volte che me lo ricordo penso a quella volta che l'ho tradito. Devo pagare un debito prima di ricordarmelo e sentire che è una parte viva dentro di me e non ho perso quasi niente. Ma in termini concreti questo pagare il debito mi sfugge però. In termini concreti vuol dire soffrire la colpa volentieri. Vuol dire questo, che la colpa tu non la respingi, che dici, quando la senti dici è giusto, gliel'ho fatto, è giusto soffrire, no? Dopo un po' che soffri, ti rendi conto che hai sofferto abbastanza. Okay. Quindi è una pena che uno si dà e si toglie. Certo, Certo. È quasi spiccio. Certo. Certo. Mi piace. No, ma è un fatto, è un fatto automatico. È una via che psicologicamente le persone oggi non seguono, perché è una via che purtroppo è legata a una vicenda religiosa. Cioè, significa espiazione. Il termine giusto è l'espiazione. La colpa si supera espiandola. Ma appena la gente sente dire espiazione, non vuole più la colpa. Sì, lo collega. No, invece al confessionale. Esatto, è un termine religioso. Esatto, lo collega a qualcosa. In realtà il meccanismo psicologico è validissimo. Cioè, la colpa si supera riconoscendo che ce l'hai e attraversandola, prendendosela e soffrendola per il tempo necessario. Tu fai così, dopo un po' la colpa ti passa da sola, cioè, anche perché si relativizza pian pianino. No, perché tu a un certo punto ti rendi conto che hai pagato abbastanza, hai sofferto. Cioè, il pagamento è soffrire volentieri, vuol dire cioè, me lo merito di soffrire, perché l'ho fatta quella cosa lì. Dopodiché, dopo un po', tu constati che ti senti libero, no? D'accordo? Quindi questo è il punto. Terzo modo di amare, cioè amare per... abbiamo messaggi? No. No. Terzo modo di amare, quali sono gli ostacoli? L'ostacolo è che io mi avvicino a te desiderando farti felice e per esempio non ci riesco. Tu sei uno che assolutamente non può essere fatto felice, no? O non vuole essere fatto felice. Tu cerca di far felice lo scrittore austriaco Bernard. Era uno che no, nessuno poteva fare felice. Cioè, chiunque avesse incontrato al mondo era un tale pessimista, un tale depresso, un tale disperato, no? Cioè, tu per esempio incontri una e vuoi fare felice quella persona lì, poi ti rendi conto che è difficilissimo farla felice, ecco, questo fa entrare in crisi la tua relazione. Oppure ti rendi conto che quell'altro ti strumentalizza. Cioè, che quell'altro, dato che tu lo vuoi far felice, non è che a sua volta vuole fare felice te. Ma prende tutto quello che tu gli dai, perché questo lo fa star meglio. Magari non lo fa essere felice. Fa semplicemente comodo. Ma semplicemente se ne serve. Si serve di te. Come si superano queste situazioni qui? In un solo modo: continuando a voler bene e a voler far felice l'altro senza volere niente in cambio. Guarda, imparando... questa qui te la scrivo, te la sottoscrivo, te la sottolineo e te la firmo pure. E io la incido sul marmo prima di salutarci. Ripetila, per favore. Le crisi dell'amore di approssimazione, cioè quelle basate su gli amori basati sul desiderio di far felice l'altro, si superano non rinunciando a volerli fare felice anche quando il rapporto va in crisi. Cioè, si superano continuando a voler bene il bene dell'altro senza volere niente in cambio. Comunque posso dirti una cosa: il cerchio si chiude, torniamo al nostro lato comico dell'amore, dove si auspicava un valorizzare la differenza dell'altro e quindi non approcciarsi all'altro con delle aspettative. Che l'altro diventi felice per opera tua è già un'aspettativa, bravissimo, è già bravissimo. Pregiudizio. Sì, è ma e che livello di pregiudizio? Cioè, chi è una persona? Io non mi sono mai messo nella testa di poter far felice una, ma chi sono io per poter far felice una? No, ma tu non lo devi considerare come una presunzione, lo devi considerare come un desiderio. A te ti puoi avere il desiderio. Io lo vedo molto come presunzione. No, aspetta, ma tu in un certo senso è giusto che è una presunzione, però se tu non hai il desiderio di far felice un altro, non ti puoi rendere conto che è una presunzione. Prima devi avere il desiderio, se no non te ne rendi neanche conto che è una presunzione. Uno se ne rende conto perché è difficilissimo, perché non basta una vita, perché ci vogliono 8 vite. Però quando però non funziona, tu hai una possibilità, che è la possibilità prettamente umana, di amare disinteressatamente, senza volere niente in cambio. Su questo si potrebbe andare avanti, magari dopo la Befana. Dopo la Befana cambiamo argomento, basta. Sennò diventa la posta del cuore questa trasmissione. La Befana però è la festa della manifestazione di Dio in terra. Sì. L'Epifania. l'epifania. Vuol dire, per esempio, alcuni sostengono che quando qualcuno ama un altro senza volere niente in cambio, Dio si manifesta. Wow, che bello! Che responsabilità! Che bellezza! Guardate, da crisi siamo arrivati anche al divino. Esatto. Perché Dio ti ha fatto, non aveva bisogno di niente. Che bisogno aveva di farti? Mica perché gli restituissi qualcosa, ci aveva tutto. Beh, però noi gli stiamo restituendo, eh. Non apriamo questo. Beh, insomma, diciamo che se io fossi Dio, un po' un senso, un po'. Il fatto è che la banca di Dio ha chiuso, nel senso che lui si è ritirato. Ah, ok. Non lo. Adesso andate avanti voi. No, è arrivata una mail. Bene, su questo direi che possiamo chiudere, visto che abbiamo parlato di epifanie. Potremmo, come trasmissione, augurare delle ottime feste a tutti. Buona quanti. Befana a tutti. Buona Befana a tutti. Buon anno. Perché la Befana in Sicilia lo porta i morti, i regali. Da tutte le altre parti porta la Befana. Possiamo basarci su questo, cioè sul regalo. Cioè aspettarci molti regali, augurarli a tutti e possiamo dire buona festa dei morti e buona Befana a tutti. Ho un messaggio sul finire proprio. Siamo in ritardo, ma lo leggiamo. Ah, vale. Certo, intanto sforiamo 30 secondi. Volevo chiudere con questa. Non può esistere bene senza male, se no come faremmo a riconoscere l'uno dall'altro? E quindi. No, il bene esiste senza il male. Esiste senza, sì, il male. Il bene è riconoscibile anche senza il male. È il male che non è riconoscibile senza il bene. Perché il male è privazione del bene. Ah, ok. Il bene è bene, non è privazione del male. Infatti. È il male che è privazione del bene. Bene. Mi piace questa cosa. Chiudiamo su questo, poi magari ci torneremo col nuovo anno. Oltre alla crisi, parliamone. Vi dà appuntamento per quest'altro anno il 15 gennaio. E che mercoledì. Sia un anno meno in crisi. Esatto, ma perché grazie a noi si supereranno tutte. Certo. Beh, scusa. auguri a tutti. Auguri. Oltre la crisi. Parliamone. In studio il professor Francesco Campione.